combattere ancora una volta. Vedo che siete stanchi. Anch'io. Questa guerra sembra non finire mai. Ma la prossima battaglia, dalla prossima battaglia dipende tutto. Altre volte, prima dei nostri scontri, io vi ho parlato. E voi mi avete sempre risposto, non a parole, ma con la lealtà e il coraggio che vi contraddistingue. Io so come e quanto vi siete battuti. E vi prego di credermi. Mi feriscono immensamente i segni che portate. Però, mai come oggi, io mi appello al vostro onore, alla vostra anima guerriera, e vi chiedo di lottare con le ultime forze fino all'ultimo. Dalla cima della collina si vede la nostra capitale. A quest'ora risplende. Non erano mai arrivati così vicino. Non avevamo mai subito attacchi tanto estenuanti. I loro morti sembrano non contare. Sembrano rinascere infiniti. Io vi conosco. Forse mi illudo. Mi sembra di conoscere i vostri nomi uno per uno. Perché io quando passo tra di voi riconosco il sentimento che ci lega. Nella città che noi domani sentiremo alle nostre spalle, che difenderemo con il nostro corpo, vive tutto ciò che amiamo. Ci sono case tranquille, persone, mestieri, i nostri ricordi. Eppure, è anche un nido corrotto, pieno di spiriti violenti e di mercanti. Ha un'anima bassa la città d'oro. Tutti noi lo sappiamo. Però io questo non potrò dirvelo. E non potrò neanche dirvi che noi la difenderemo nonostante questo. O forse addirittura per questo. Perché è la nostra città. Perché ci rappresenta. Noi non sappiamo come diventerà. Non possiamo giudicare. Noi vogliamo solo lasciarla crescere in pace. Noi la difenderemo comunque. Per vedere come sarà la sua età adulta, noi gli offriamo oggi il nostro braccio e la nostra ombra. Capitano, le sentinelle sono rientrate con un ferito e il nostro convoglio con i rifornimenti è stato attaccato. Si sono nascosti nella boscaglia senza insegne e ci hanno aggredito alle spalle come briganti. Questo nemico non ha onore. Attendente, ma se non avevano insegne, come possiamo esserne certi? Sono stati riconosciuti? Avevano il viso dipinto di nero. Era difficile distinguerne i tratti, ma urlavano nella loro lingua. Urlavano. Ci sarà stato bisogno di urlare, però anch'io, se volessi, potrei urlare qualche parola nella loro lingua. Capitano, ma se non sono stati loro, chi potrebbe essere stato? Lei crede che abbiano scavalcato le nostre linee? No, perché se così fosse, noi saremmo accerchiati. La sentinella ferita? Dov'era di guardia? Che cosa ha visto? Niente, era con un drappello in esplorazione e hanno incrociato dei nemici. Lei crede che un carico non può interessare a nessun altro? Quando avete acquistato dai mercanti in città, siete sicuri di non avergli anche detto quale tragitto avrebbero fatto le merci? Ma la gente è terrorizzata. Tutti sanno dove è arrivato il nemico. Ci sono persone che si avvicinano spontaneamente ai soldati per regalare i propri gioielli. Perché dovrebbero attaccare le nostre scorte? Perché la città è affamata, come lo siamo noi. E ci vuole molta disciplina quando si ha così tanto bisogno. E poi, non tutti sanno riconoscere il nemico. Siamo scoraggiate. Una vostra parola sarebbe preziosa. Vi aspettano. Se più tardi vorrete parlare. Sì, sì, va bene, più tardi. Attendente, adesso i miei ordini. Tornate da quei mercanti in città. Mandategli un convoglio ben armato e fatevi dare tutto quello che possono. E poi ditegli che noi pagheremo dopo la battaglia. Così vedrete che anche loro ci sosterranno con passione. Tra poco io vengo a ispezionare il campo. Allerti gli ufficiali. E prenda le mie armi. Signora, già sono state pulite. Le prenda e non discuta. Mi perdoni. Prima di una grande battaglia si può capire dallo spirito che regna nel campo chi vincerà o perderà. Gli occhi degli animali portano i segni del destino. Da cosa dipende la volontà dei soldati? E dopo, i sopravvissuti potranno veramente dire che quello che gli è successo non l'avevano previsto. Sorella? Amina? Non porti domande senza risposta. Amina, da dove vieni? Non ti ricordi? Eppure abbiamo passato tanto tempo insieme. No, io ti ho chiesto solo da dove vieni, perché io non sapevo che anche tu eri qui. Qui dove? Qui, qui, all'accampamento. Amina, che notizie mi porti? Li hanno visti, sono nel bosco e sono solo un piccolo drappello. È il nostro momento, li attacchiamo di sorpresa. Saremo così veloci che non faranno neanche in tempo ad usare le armi. Andiamo, sbrigati, siamo quasi pronte. Non posso. Che cosa vuol dire? Qual è il tuo problema? Non tradirai le tue sorelle? O non avrai mica paura? Beh, tu tieniti vicino a nostra sorella e poi, se proprio sei in difficoltà, urla, urla forte. E qualcuno arriverà a darti una mano. Lavinia. Prendi la lancia allo scudo. O preferisci la mazza? Ti ho visto l'altro giorno, sei brava. Comunque scegli tu, basta che ti sbrighi. C'è la neve. Sì, è tutto bianco. I cavalli al galoppo solleveranno grandi nuvole. Ma non è così alta, andiamo. Vuoi sbrigarti? Sorella, io non voglio farti da balia. Ho freddo, devo scaldarmi. Se non vuoi venire, non venire. Però te lo dico, oggi perdi una grandissima occasione. Torneremo con molti trofei e abbiamo deciso. Li offriremo tutti alla nostra signora. E questa volta dovrà riceverci. Oggi potrebbe essere l'inizio di una gloriosa carriera. È indegno che abbiano fatto cavalieri quelle stupide. E ancora non riconoscono la nostra famiglia. Io, se mi capitasse un duello, glielo dimostro. Mettetemele davanti. Sarei capace con una mano sola, alla sinistra. Allora andiamo. Vieni, corri. Ti faccio sentire il mio nuovo urlo di guerra. Loro non lo sanno, ma sono andati in quel bosco per noi. Sono nati per darci questo momento. Festeggeremo. Stasera festeggeremo. Me lo sento. Amina, tu mi vedi? Certo. E quanti anni ho? Ma è come me. 20. No, 16. Tu ne hai 16. Per quelle di noi che questa notte pensano a chi stanno lasciando, per quelle di noi che hanno famiglia, io voglio dire che se combatteranno con onore e moriranno, i loro cari non saranno abbandonati e loro non saranno mai dimenticate. Dobbiamo attaccare. Non possiamo più attendere. No, aspettiamo. Devono essere loro ad avanzare. Bisogna prenderli di sorpresa. Bisogna attaccare. Non c'è sorpresa. Gli eserciti sono schierati e ogni nostra mossa è sorvegliata. E noi non possiamo avanzare, perché davanti a noi c'è il fiume. Dobbiamo aspettare che lo attraversino loro. Chiunque combatterà con alle spalle quei due ridicoli ponti avrà già perso. Hanno guadagnato fin troppo terreno. Vogliamo lasciare che ne prendano ancora? Non comandavo io le truppe quando avete perso negli altri scontri. Di voi si dice che siete troppo... Che sono troppo? Beh, voi avevate già vinto contro i Mori, ma poi avete lasciato che raggiungessero l'acqua. Io non prendo i nemici per sfinimento. In ogni assedio, lo sfinimento è l'arma migliore. Esistono nuove tecniche di combattimento, ci sono nuove armi. Bisogna piegarsi ai cambiamenti. Le mie guerriere sono le prime. Sono addestrate al nuovo uso della lancia. Noi siamo pronte a batterci in campo aperto con chiunque. Ma, capitano, questo non è un elegante torneo. Se un nemico cade, non bisogna dargli il tempo di rialzarsi. Ricordatevi con chi vi state confrontando. Loro non hanno il vostro rispetto. Se vincono, saccheggeranno la città, l'hanno promesso, gli daranno fuoco. Loro non sanno che farsene dei nostri preziosi giardini. Se non avete fiducia, ma perché mi avete chiamato con tanta furia? Per sostituire i vostri comandanti stanchi? Oh, nessuno dubita del vostro valore. Ricordiamo tutti i vostri successi, ma La nostra tenerissima signora. La nostra tenerissima signora. Mai come ora mi ha degnato di così vasti onori e di così fantasiosi titoli. Ne ho talmente tanti che io non so più come devo chiamarmi. Capitano in capo, guerriero eletto, cavaliere della città d'oro. Bene, allora dovete attaccare. La signora vuole questo. Se temete i ponti, bruciateli alle vostre spalle. Le nostre truppe saranno più motivate se sapranno di non avere vie di fuga. Ah, ma anche questo è un ordine della nostra signora o è soltanto un vostro suggerimento? Piuttosto, voi mi avevate promesso degli rinforzi. Quando arriveranno? Sono 5 volte il nostro numero. Per quanto possiamo essere abili, per quanto armate, loro possono sommergerci. Stiamo trattando, ma c'è della turbolenza. I nostri vassalli... I nostri vassalli, prima di schierarsi, vogliono capire chi vincerà. Non è vero. È solo questione di organizzazione, di tempo. Arriveranno. Arriveranno. Ma ora voi attaccate. È strano. La signora è la nostra imperatrice. E in lei riposa un immenso potere. Eppure, non può nulla se noi non gli ubbidiamo. Vive chiusa in un grande palazzo e cammina su un pavimento che è formato da gabbie di legno. In ogni gabbia è rinchiuso un rarissimo uccello. I suoi schiavi sono albini o deformi, l'hanno circondata di fenomeni perché lei non possa mai dimenticare che non appartiene al nostro mondo. Ha il sangue malato, ma sposerà suo fratello. Hanno scritto che il suo viso ha una luce opalescente e che le sue dita sono come fili di cotone. Imperatrice bambina, io non potrei mai farti del male. Disponiamo di stoffa? Che genere, capitano? Stoffa grezza. Forse, devo informarmi. In che quantità? Troppa. Smontiamo le tende. Ogni soldato, mettete al lavoro tutti, deve costruire un fantoccio. Ogni soldato deve costruirne uno. Tagliamo la tela delle tende a grandezza naturale. Voglio preparare un altro esercito. Riempitegli di paglia, di fieno, di qualsiasi altra cosa. Con cosa li vestiamo? Con le armi dei feriti o dei morti. Scuritegli la faccia con del carbone. E poi, come li teniamo in piedi? Ci vogliono dei bastoni. O dei carri. Sì, li caricheremo su dei carri. Basteranno 2 soldati per tenere in piedi una fila. E cosa ne faremo? Ancora non lo so. Ma se non possiamo avere dei rinforzi veri, allora è meglio inventarli. Io la mia prima spada ce l'ho avuta a 5 anni. 7. E non riuscivi a tenerla dritta. A 7 anni ci davano la spada. Io ero molto brava con l'arco. Sì, tu non prendevi un cocomero alla distanza di 3 passi. Io galoppavo senza sella a 4 anni. Ed è probabile, perché tu con i cavalli sei sempre andata d'accordo, perché gli animali ti capiscono. Dimmi tu. Tu che sai fare, tu che fai tanto la spiritosa. Io dico solo questo, tu te ne approfitti perché sai che non me la prendo con i più piccoli. Io dico solo questo. Tu hai paura di batterti con me. Vieni, vieni avanti, sei coraggio. Tu? Io? Tu prima o poi ti farai male. Non bisogna sfidare i più forti. Mamma dice che è il mio carattere. Mamma dice anche che bisogna essere umili. I veri guerrieri sono saggi. È inutile battersi quando sai con certezza che perderai. È meglio conservare le forze e aspettare. A volte non si può scegliere. Non è un disonore. Difenderai meglio la tua signora se resterai in vita. Io non scappo. Vieni avanti. Io non scappo. Non essere cieca. Vuoi mandare i tuoi fedeli soldati alla rovina? E poi chi difenderà la città se tu muori? Dividerli. Io devo dividerli. Ho un piano, ma ho bisogno di tempo. Non posso attaccare domani. Sicuramente non attaccherò fino al tramonto. Oh. E se attaccheranno loro, Non gli conviene. Anche loro sanno che non conviene. Il fiume. Sono arrivati dei messaggeri. A monte stanno costruendo una diga. Quando la completeranno, il fiume si seccherà e loro potranno attraversare tranquillamente. Una diga. E da quando? Con che cosa stanno costruendo? Non lo so, so solo che stanno costruendo molto rapidamente. Sarà di legno. Non può reggere per molto quella portata d'acqua. Allora forse stanno cercando di deviare il fiume. E comunque non hanno bisogno di tanto tempo. Basterà attraversare una volta. Ma i nostri alleati? Non c'è nessuno che controlli quei territori. Se tutto il loro esercito è qui, ma quanti saranno quelli che stanno costruendo sul fiume? Che cosa ci vuole a fermarli? Ho mandato messaggi di risposta con le stesse domande che state facendo voi ora. Se non hanno agito fino ad adesso, dubito che le nostre proteste possano servire a qualcosa. In queste ore, cosa fa la gente in città? Alcuni ballano, altri pregano, come credo si faccia in questi casi. E chi può allontanarsi cerca un nascondiglio in campagna. Ma quando loro arriveranno, si spargeranno come una nuvola di polvere e non ci sarà più riparo per nessuno. E la nostra signora? Ah, lei è una vera consolazione. Dipinge molto, ma rigorosamente, fiori, frutta. Nessun ritratto, nessun paesaggio, niente che possa un giorno rimpiangere. Se loro da lontano vedranno il nostro esercito dividersi, se penseranno di dover fronteggiare due attacchi, allora anche loro si divideranno. Di che parli, sorella? Quando il fiume si seccherà, noi dobbiamo essere pronti. Noi combatteremo tutti da una parte e dall'altra solo fantocci. Fantocci e pochi soldati. Non capisco cosa dici. Ma se si accorgeranno troppo presto del trucco, ci piomberanno addosso e di fianco. Forse non ci basterà il tempo. Stai male? Farnetichi, vuoi che chiami aiuto? Da quella parte, il finto esercito non deve essere raggiungibile. Non subito. Noi abbiamo bisogno di tempo. Tu hai sempre parlato nel sonno. Urli anche a volte. Delle fosse, delle lunghe buche nascoste. Le tue notti sono sempre state così agitate, fin da bambina. Loro, avanzando l'attacco di corsa, ci cadranno. Chissà perché. Almeno le prime fila. Tra l'altro, con la spinta, non potranno fermarsi subito. Nel sonno ti contorci. Sì, ecco che cosa faremo. Perderanno del tempo. Ti agiti, ti difendi selvaggiamente. Ci vogliono delle buche coperte, come delle lunghe trappole. E chissà quali terribili nemici. E quando noi attaccheremo da questa parte, loro attaccheranno dall'altra, è come un riflesso, non potranno resistere. Sorella, stai dormendo, svegliati. E quando le loro prime fila cadranno nelle buche, loro avranno un momento di sbandamento e si fermeranno ad aspettare le nostre mosse. E il nostro finto esercito non attaccherà. Non attaccherà perché non può attaccare. Ma loro non lo sanno e resteranno lì a fronteggiare il nulla, il tempo necessario a noi, solo per batterci alla pari. Sorella, perché farnetichi? Stai male? Hai una ferita che non vedo. Svegliati, svegliati, avanti, non farmi preoccupare, rispondimi, per favore, rispondimi. Dobbiamo iniziare a scavare, dobbiamo approfittare della notte, dobbiamo decidere subito. Ma dove? Che cos'è questo sonno? Possibile che non mi senti? E poi bisogna organizzare lo spostamento. Devono sembrare un esercito, muoversi come un esercito. Svegliati, rispondimi. Le prime due fila devono essere di soldati veri. E dietro i fantocci. Guardami, smetti di agitarti, sono io. Pochissimi sono io. Soldati. Il minimo. Con un solo ufficiale. Il necessario per tenere in piedi le filate fantocci, per guidare i carri. Il minimo. Sì, il minimo. Anche perché quando quei soldati alla fine saranno raggiunti, non potranno difendersi. No, non potranno difendersi. Andranno perduti. Gli ufficiali hanno riunito le truppe. Sono pronte per l'ispezione. Capitano, se le vuole, sarebbe un buon momento per parlare. Mi perdoni l'insistenza, ma abbiamo bisogno. Ci rendiamo conto. Siamo pronte. Ma è così facile perdersi d'animo in certi momenti. C'è un'immensa differenza. Se sento le mie compagne al fianco, se le sento vicine in un momento così drammatico, io posso anche arrivare a riderne. Se sento il loro calore, se le guardo negli occhi e vedo che anche loro hanno paura, come me, ma resteranno. Io combatterò per loro. E loro combatteranno per me. Io lo farò come un regalo per la compagna che sarà al mio fianco. Mi dedicherò a lei completamente, perché lei, per me, in quel momento li rappresenterà tutti. Tutti i deboli che ho visto in vita mia. Tutti quelli che mi hanno chiesto aiuto. E tutti quelli che di me si sono fidati. Io posso e voglio rispondere. Come vede, noi sappiamo quello che c'è da sapere. Eppure, alla fine, noi volgeremo comunque l'ultimo sguardo verso di lei, perché la bilancia penderà ancora un po'. E a quel punto, in quel momento decisivo, nello sguardo che lei ci rivolgerà, noi ci rifletteremo come in uno specchio. Solamente guardando i suoi occhi, nella certezza della sua decisione, noi definitivamente ci riconosceremo. E allora, solo allora, chiare, potremmo andare incontro al nostro destino. Signora, la prego, si volti verso di noi. Aspettiamo. Perché insiste? Perché insiste tanto? Forse sa, o immagina, forse vuole provocarti. No, non è possibile. Nessuno sa. Lei forse a questo punto non mi crederà. Ma io ci tengo a dirle che ho veramente molta ammirazione per lei. Io penso che se noi abbiamo ancora una possibilità, questa è dovuta interamente alla sua presenza, al suo istinto. Io mi fido del suo istinto. Anche se sa, dicono che la sua famiglia, come dire, non è proprio pura. Così dicono? Mi sono trovata più volte a difenderla. A palazzo si mormora che sua madre, che la famiglia di sua madre, abbia delle ascendenze... Ascendenze? Che sia nata... Dicono che lei ha sangue barbaro nelle vene. E allora dicono il vero. Mia madre era una valorosissima guerriera, però non era dei nostri. Non fu vinta e non si arrese per sua scelta. Lei ubbidì al suo capitano, che decise la resa. Ah, allora diciamo che lei conosce bene il nostro nemico. Il nemico, sì. Io e le mie sorelle, per questa colpa, nonostante il nostro valore, siamo state ignorate per molto tempo dalla nostra gentile signora. Lei ha del rancore? No. E che sentimento prova a dover combattere contro dei fratelli, dei cugini lontani? Io sono nata qui e qui sono cresciuta. E certo, ho anche dei ricordi bellissimi di mia madre. Io non ho bisogno di immaginare il nemico come qualcuno diverso da me. Io conosco il mio ruolo. Dei parenti di sua madre, ha notizie? Ma lei... Lei sta chiedendo al capo del suo esercito se è un traditore. Ah, ma come Candida. Ma non le sembra tardi? Se mi fossi venduta, a cosa servirebbe domandarmelo? Poco fa lei stessa ha ammesso che io sono la vostra ultima speranza. Cosa vuole che le risponda? Devo rassicurarla? La nostra imperatrice ha fatto un gesto usuale nella sua dinastia. Ha scelto un barbaro e l'ha fatto diventare capitano delle sue truppe. Lei sfrutterà la violenza del mio sangue misto. E poi, chi può essere più leale di un nemico convertito? Lei è convertita? Io sono combattuta! E per questo mi è necessario avere più disciplina degli altri. Ma cosa vado a raccontarle? Questa notte, queste ore, passarono con una tale rapidità. Io adesso la lascio. Devo dedicarmi alle nostre fragili difese. Allora? Non lo sa, non sa niente. Nessuno può sapere. Attendente, andiamo. Mi accompagni nell'ispezione. Ci sono guerrieri che dormono con la propria spada. Altri invece le parlano. La spada è un'incarnazione della legge. O è un segno divino? La mia spada e il mio braccio, come un immenso fiore aperto, mi imbarazza e mi attrae. La mia spada è il sigillo del mio potere. In una famiglia, la spada viene tramandata e affidata ad uno dei figli come un'investitura. Io, se fossi un genitore, la darei al più forte o al più debole. Le spade migliori sono composte da centinaia di sottilissimi strati. Per questo, se un'ottima spada si spezza, non potrà mai più essere ricomposta. Cosa ti ricordi di me? Va bene la tua ispezione? Sì, sono così generose, così pronte a tutto. A volte quasi peggio. Ti piacerebbe di più dover combattere l'insubordinazione? Mi piacerebbe sentire che se io sbaglierò, loro si sottrarranno. No, moriranno eseguendo i tuoi ordini. La responsabilità è tua, completamente tua. Non vuoi aiutarmi? Scappa, nasconditi, cambia nome, dimentica tutto. Potresti rifarti una vita altrove. Non è necessario avere potere o combattere. Potresti coltivare la terra o costruire ancora qualcosa con le tue mani. Oppure potresti solo contemplare e la tua vita non varrebbe di meno. Nessuno ha il diritto di giudicare. Non posso. Questa battaglia è persa e tu morirai. Questa ragione non è sufficiente per me. Io non posso scappare. Perché devo vedere tutto questo? Perché devo vederlo ancora? Mi dispiace. No, non ti dispiace, non ti importa, non ti importa. Tu non sei umile. Invece devi svegliarti ogni mattina e ringraziare. Devi ringraziare perché sei ancora in vita. Non posso, Amina, non lo posso fare. Non è la mia natura. Tu non ti rendi conto. Tu non sai quanto vale. È per questo che sei tornata questa notte. Era questo che mi volevi dire? A chi stai dedicando tutta questa assurda fedeltà? Chi è che vale così tanto? No, te lo dirò io. Ti parlerò io del silenzio, della perfida signora, perché tu lo sai. Si può passare un'intera vita ad aspettare. Io ti conosco. E non è per i tuoi fedeli soldati. E neanche per la nostra bellissima città. No, non è per loro che ti vuoi battere. Non è vero. Tu pensi che lei ti ha amato quanto tu hai amato lei? Lasciami in pace. Sei il suo braccio. Ma la tua sorte gli è indifferente. Ha usato, userà il tuo coraggio perché ha bisogno di un capitano per le sue truppe. Soltanto perché lei non prenderà mai in mano una volgare arma, neanche se una spada. Lei non si sporcherà mai inseguendo un nemico nel fango. Ma tu ti illudi. Se pensi che lei non abbia riso di te con le sue cortigiane, di te e della tua patetica fedeltà. Sì, ti ha fatto promettere. Ma solo perché sapeva che per te la promessa contava. Sapeva che tu non avresti mai tradito il giuramento. Per questo si è presa la tua parola. Ma se tu anche arriverai a darle la vita, lei non ti ricambierà mai con l'amore che tu da sempre aspetti. No. Non è così basso il nostro patto. Tu conosci le esatte parole del mio giuramento. Io mi impegno per difenderla, a non temere la morte. Tu non pensi, Amina, che chiunque possa ispirarti a lungo un simile accordo ha già ampiamente ripagato la tua offerta? Vuoi sapere che cosa ricordo di te? Io mi ricordo di te mentre mi vegliavi. Non ti sei mai stancata e non hai mai ceduto. E io, per tutte quelle lunghissime ore di agonia, ti ho potuto guardare senza paura. Gli altri intorno a noi piangevano, si disperavano, avevo troppa pena per loro, non riuscivo a guardarli, ma tu no. Eri la più piccola, eppure sei restata calma fino alla fine. Avevo fiducia in te, e ogni volta che mi sono voltata ti ho trovato ad attendermi. Ti ho potuto guardare profondamente negli occhi. Solo tu mi hai accompagnato. Noi due, da sole, siamo arrivati al limite, oltre. Tu non mi hai potuto portare, ma l'avresti fatto se te l'avessi chiesto, perché so che non avevi nessuna paura. E questo è accaduto molti anni prima del tuo patto. Te lo ricordi? Pensi che potrei dimenticarlo? Allora perché credi di dover ringraziare qualcun altro per il coraggio che tu hai sempre avuto? Amina, vedi, quella volta io dedicai il mio coraggio a te. Non essere gelosa adesso se io devo dedicarlo a qualcun altro. Io sono un cavaliere o uno schiavo, questo ancora non lo so. Ma la mia opera, qualsiasi sia, anche solo una triste guerra, io devo dedicarla al mio amore. Io sono nata per servire. Ma non vale niente che io ti parli da qui. Non vale niente che io ti voglia salvare. Aspetta. Ho un debito con te, capitano. Come posso ripagare il mio debito? Amina, aspetta. Se sei tornata questa notte, forse è per portarmi qualcosa. Ma qualcosa che anche a te è sconosciuto. Allora qual è il tuo segreto? All'inizio, la nostra città era un piccolo borgo di pescatori. Le navi che dal mare risalivano il fiume dovevano per forza fermarsi qui, perché oltre non era navigabile. E questo divenne in terra l'estremo avamposto del mare. Del mare, dei suoi immensi confini, rimase l'eco nei nostri mercati. Da noi potevi acquistare ogni cosa. Ti veniva offerto tutto quello che volevi, anche quello che non sapevi neppure immaginare. E poi, di notte, dalle nostre mura, partivano le lunghe carovane di merci che riccamente hanno nutrito la nostra terra. Le sentinelle dicono che nel campo avversario c'è movimento. Allerti gli ufficiali. Ed è proprio grazie al nostro abile commercio che questa abbandonata provincia si è trasformata nel simbolo della cultura, della raffinatezza. Attendente, ditemi, il fiume, l'acqua sta diminuendo? Perché i mercanti, tanto disprezzati, dopo il grano e le stoffe, portarono anche i libri. No, capitano! Ma hanno acceso dei fuochi! Dei fuochi? E da ogni parte del mondo conosciuto giunsero da noi e furono accolti i segni, le parole degli uomini. Adesso sono solo dei piccoli fuochi! Allungo tutto l'argine, hanno disposto delle grandi pile! Si stanno preparando ad attaccare di notte, ma perché accendere dei fuochi? Sembra che vogliano avvertirci, i fantocci sono pronti? Quasi! Noi non siamo stati un popolo pacifico, abbiamo conquistato avidamente, ma siamo sempre stati spinti da un'immensa passione, da una viva curiosità. Interrompete il lavoro, non possiamo più aspettare. Io sono certa che in terre lontane i nostri marinai si sono inginocchiati di fronte a idoli che non capivano, ma di cui riconoscevano la bellezza selvaggia. Io sono certa di questo. Disponete lo spostamento del finto esercito così come abbiamo deciso, alla nostra destra. Perché noi abbiamo copiato così tanto. La nostra architettura è ricca di riferimenti. Noi abbiamo trasformato in pietre cose viste anche solo una volta da uno soltanto di noi. Noi non abbiamo dimenticato niente. Ricordate, devono muoversi tutti insieme, lentamente, i soldati veri davanti e di lato, così guardando da lontano. Avete già scelto i soldati necessari? Sì, capitano! E le buche difensive? Sono terminate. E adesso? Adesso giurano che se vinceranno. Abbiamo fatto il possibile, sì! Quando tutto è pronto, prima di muovere, aspettate il mio ordine. Raderanno al suolo palazzi, giardini, statue, fontane, le nostre prospettive perfette. Basta! Basta, lo so. Lo so e non mi interessa sentirlo ancora. Abbiamo capito quanto è bella la nostra città e quanto rischiamo, ma non c'è più tempo. E non è di questo che dobbiamo parlare. No? E di cosa allora? Il nemico si muove! Parliamo di ciò che è necessario. Parliamo... Del tuo segreto! Del mio segreto. Oh, sciocchezze, non perdiamo tempo. Ognuno ha i suoi segreti. Non posso guardarvi negli occhi. Io non posso condurvi in battaglia. Capitano, non c'è bisogno di dire tutto. Io sono qui per fare il mio mestiere. Io non posso sottrarmi allo scontro, da qualsiasi parte questo provenga. Non c'è più tempo, lo ha detto anche lei. Non siamo abbastanza forti. Non abbiamo bisogno di essere indeboliti interiormente. Noi possiamo far finta di non aver sentito, vero? Possiamo ancora? No, capitano, aspetti. Non pensa cosa rischia di perdere con le sue confessioni? Io sono già pronta a dare la vita. Ma se il prezzo questa volta fosse peggiore della morte? Lei ora è un capitano, il nostro capitano. Non sa nemmeno quello che vuole dire, perché non la lascia parlare? Il mio lavoro è la diplomazia. I segreti, io lo so, sono sempre debolezze. Com'era? Oh sì, Mina, anima mia. Ecco perché sei qui. Aiutami tu, fammi le domande giuste. Com'era? Aveva piovuto da poco. Quando finalmente sono riuscita a ricordare, l'aria era molto nitida. Ci eravamo ritirati su una collina, vicino a un bosco. Avevamo molti feriti. Quando? Mi sembra la collina il nostro ultimo combattimento. La battaglia, invece, era stata sotto un cielo grigio. E io avevo partecipato, come faccio sempre, in prima fila. Sai, l'attacco è come un'onda. Ha la potenza di un'onda che ti porta fino allo scontro con uomini e animali. E dopo? È come trattenere il respiro sott'acqua. Il tempo non c'è più. Ci sono solo frammenti. Frammenti di immagini particolari. L'azione precipita. E tu sei solamente occhi, braccia, gambe, armi. Sei una somma di riflessi. Senti tutto con estrema forza. Ma sei vuoto. Non hai più pensieri. È molto consolante combattere. E poi? E poi... Lei era a terra, sotto di me. Non ricordo se era in ginocchio. No, aveva il viso rivolto verso di me. Era caduta di schiena. Aveva le braccia allargate. Ti guardava? Sì. E io non riuscivo a colpire. Non riuscivo. Aveva paura. Ma io lo conosco, quel terrore. È solo un attimo prima che la mia spada scenda. È solo un attimo. È normale. Ti ricordava qualcuno? No. Era giovane? No. Forse era bella? No, no, no. Non mi ricordava niente. Non era bella, non era migliore. Allora magari sei tu che hai pensato a qualcos'altro. Ti sei distratta? Ma io sono forsennata quando combatto. L'ho già detto, io non penso a niente, ma... Si può capire qualcosa senza pensare? Che cosa c'è di così grave? Può succedere, ringraziare un nemico? È un atto di clemenza? È tutto qui, questo terribile segreto? Dov'è il dramma? Oh! Forse adesso il nostro capitano ha paura. Teme di non essere più lo stesso. Teme di non sapere più colpire. Allora noi organizziamo un duello, sì, uno splendido duello. Prendiamo un campione tra i nostri prigionieri, un campione con il quale il nostro capitano si misurerà. Così ci dimostrerà ancora una volta il suo valore e fugheremo ogni dubbio, vero? Chi ti ha detto che io l'ho graziata? Io non ho avuto pietà. Allora, io non capisco. Qual è il problema? Questo è uno scherzo, vero? Vi ricordo che stiamo per perdere tutto. E poi, capitano, cosa è successo quel giorno? Niente. Non è successo niente. La battaglia è finita. Io non so dove sia quel corpo. Ma che importanza ha? Lei, capitano, poco fa ha detto che vicino a quel bosco c'erano dei feriti, i nostri feriti. Vogliamo commuoverci? Bene. Allora pensiamo ai nostri morti. Quello era solo un nemico. In tutto questo tempo... Io adesso mi rendo conto. Io ho aspettato, ho sperato che questa cosa che io ho capito senza pensare trovasse delle parole o dei gesti per manifestarsi. No, non fatemi passare per cattiva. Io vi ricordo che in quella città ci sono delle persone che si sono affidate a noi. E tra quelle persone ci sono dei bambini. E se non ci penserete voi cavalieri, a difenderli, nessuno li difenderà. Allora, attendente, prenda lei il comando. Capitano, mi perdoni, ma non posso. Io so già qual è il mio compito. Nello scontro ci saranno due schieramenti da comandare. Io comanderò l'esercito dei fantocci. Da quella parte deve esserci almeno un ufficiale. Ma lei sa benissimo che... No, il suo piano è giusto. Quando un nemico è troppo forte bisogna dividerlo. Lei deve comandare il vero attacco. Ma io non sono più in grado e non c'è più tempo. Noi eviteremo di guardarla negli occhi. Ognuno si terrà le sue paure e combatterà da solo. Grazie, ma non può funzionare. Parlagli delle formiche. Ma è ridicolo! Ma come possono capire? Per loro adesso non ha nessuna importanza. Hanno troppa paura per se stessi e giustamente. Anche per gli altri. Tu, prova! Diglielo comunque, almeno diglielo. Quando ho cominciato a ricordare, dopo la pioggia, la prima cosa che ho visto sono state delle formiche. Il viso di quella donna si è sovrapposto ad un formicaio. C'era un grande lavoro. Io stavo guardando un immenso lavoro. Ma che vuol dire? E poi anche le formiche fanno la guerra. Ma sei di questo che dobbiamo discutere? Prova con lei. Parlale dell'onore. A lei, parla dell'onore. Io sono un soldato. Io voglio servire, io voglio morire per amore. Io sono qui per difendere la città. Ma da cosa? Chi è il nemico? Dov'è? È diverso da me, è così diverso dal mio braccio. Io voglio essere fedele, è la mia natura. Io sono fedele, io non posso tradire. Ma chi è il mio vero signore? Chi è che mi comanda? A chi devo ubbidire? A chi devo tutto il mio rispetto? Io mi voglio inchinare. Tu sei un cavaliere come me. Ti prego, credi alla mia parola. Io non volevo, te lo giuro sul mio onore. Io avrei preferito non capire. E invece hai capito. Ma perché proprio quel giorno? Perché non prima? Quel giorno sono stata degna. Degna? Ho ascoltato. E prima non potevi ascoltare? Prima non potevo, ero troppo piena. Di cosa? Di me. E come mai proprio quel giorno non lo eri più? Anni. Quell'attimo è venuto dopo anni in cui io ho cercato disperatamente di dare alle cose il loro vero nome. Io non sapevo perché, ma sentivo che era necessario. E poi è successo. Ogni cosa, chiamata veramente, ha preso il suo giusto posto e si è fatta di lato. E nel centro. Nel centro di me. Alla fine è rimasto solo uno spazio vuoto. Del silenzio. Della calma. E lì io finalmente ho potuto vedere. Ho visto il viso di quella donna, di quel soldato. Non ero io. Era assolutamente diverso da me. Veniva da fuori. Ma io l'ho riconosciuto. Perché contemporaneamente io l'ho vista davanti a me e dentro di me. Lei sì, stava anche nel mio centro, dove tutto, tutto è rappresentato. Perché questo spazio vuoto è come un buco, è come una porta, è un caos fermo. E tu questo, come lo chiami? Io credo sia l'amore. L'amore per cui sei pronta a morire. Capitano, perché mi ha fatto pulire così tante volte le sue armi? Sentivo che avevo bisogno di una spada nuova, di un'arma immacolata. Sì, Amina, non voglio perdere. Non la voglio perdere questa battaglia, perché questa è già la battaglia, vero? Io mi sto battendo. Sì, e ti stai battendo bene. Perché questa volta, tu lo sai, bisogna andare fino in fondo. Da questa battaglia dipende tutto. Era il discorso che facevo. Io parlavo da sola, nella mia tenda. No, tu non parlavi da sola. Parlavi a te stessa. Alle tue truppe, capitano. Ricordi, hai detto, per vedere la nostra età adulta, noi oggi vi offriamo il nostro braccio e la nostra ombra. Ombra. Sì, questo è il vero scontro. Questo è il tuo vero nemico. Che armi ho? La parola. Ma non lo vedi che non basta? O forse sono io che non lo so usare? Per tanti anni mi sono preparata ad altro. Capitano, io non capisco assolutamente che cosa stia balbettando e con chi stia parlando, ma le ricordo che se lei non accetta di combattere, io dovrò dare ordine di giustiziarla. No, no, digli che non può, che sarebbe sbagliato per l'esercito, per il morale dei soldati. E lei invece accetta di guidare lo scontro, beh, dopo ci sarà tempo per parlare dei suoi dubbi, di questa sua recente visione mistica. Altrimenti pensi anche che nessuno saprà mai il perché della sua morte. In fondo si tratterebbe di un ultimo combattimento e ci sono buone possibilità che lei sopravviva. In seguito potrà scegliere di vivere come la sua coscienza le detta. Un pugno di morti in più non cambierà di molto la sua già pesante carriera. Io non sto cercando di sottrarmi allo scontro. Ah no? E cosa vuole allora? Ah! Convincerci a lasciar perdere. Ah, poi pensa anche di andare sul campo di battaglia per convertire i nostri avversari? Lei è pronta a darmi il comando, ma si rende conto che io a quel punto potrei tutto. Potrei aspettare troppo a lungo prima di dare la carica e il nemico passerebbe tra di noi. E allora lei sarebbe responsabile di infiniti delitti di persone inermi. Infatti, no. Lei mi ha suggerito delle idee migliori. Andrò io a convincerli. Ma capitano, questa è un'assurdità. Non accetteranno mai. E se lei andrà da sola? Ah, loro saranno felici. Accoglieranno a braccia aperte il nostro capitano, finalmente disarmato. Sa, nonostante l'incertezza della situazione, sono certa di sapere come tornerà da questo incontro. Io non ho detto che tenterò di convincerli a parole. Per ora manderemo una delegazione. Chiederemo loro un campione. Se accetteranno, mi batterò io, solo io. Non accetteranno mai. Perché dovrebbero mettere la loro sorte nelle mani di un campione quando sono in maggioranza? L'esercito dei fantocci è pronto a spostarsi? Sì, capitano. Bene, allora faremo dividere l'esercito adesso. Subito, prima della trattativa. Loro non saranno più sicuri di essere in maggioranza. Beh, ma dopo le sue ultime dichiarazioni, perché dovremmo fidarci di lei? Lei potrebbe non essere il campione giusto. Lei potrebbe perdere apposta. Per vedere la mia città distrutta. E sia. Ma se combattendo lei dovesse vedere le sue formiche. Una persona può avere delle visioni, può arrivare ad intuire molte cose del futuro. Ma per quanto capisca, deve comunque accettare che non tutto sarà realizzato nella sua vita. C'è del movimento. Finché sono sola, finché non trovo le parole giuste per convincervi, io posso solo tentare di contenere i danni. Sento delle grida. Dille del sogno. Attendente, Prepari questa delegazione, subito! No! Perché dovremmo accettare la sua idea? È pericoloso mettere tutto nelle mani di un'unica persona! Dille del sogno! Almeno, mentre io tento ancora di spiegarle, faccio partire i messaggeri! Dille del sogno! Vediamo se accettano, facciamo almeno questa prova! No! Dille del sogno! Una di queste ultime notti. Ieri. Sì, ieri. Io ho sognato che eravamo noi donne a partorire. I bambini nascevano così come nascono, nel sangue. Ma eravamo noi a versarlo per loro. Eravamo noi a dare il nostro corpo per la vita. Però in questo sogno assurdo, ridicolo, no, noi mentre partorivamo indossavamo le nostre corazze. Allora io ho cominciato a pensare, il sentimento che nel sogno io provavo partorendo era simile allo spirito che anima la nostra cavalleria, assomigliava alla nostra disposizione al sacrificio, all'offerta che noi facciamo del nostro corpo per difendere gli altri. E così mi è venuto in mente che forse la guerra è solo un rito goffo che imita la nascita. Se fossimo veramente noi a fare figli, sarebbe un doppio inutile. No, però nella nascita è necessario versare il sangue, pensateci. Nella guerra, no. Se è solo un'astrazione, allora noi possiamo trovare un altro modo per batterci, un'altra forma per confrontare le nostre forze. Ma almeno! Almeno mi ascolti, almeno! Creda all'onestà delle mie intenzioni. Stanno attaccando. Vostre spade. Il nostro tempo per parlare è finito. Ancora una volta abbiamo perso. Ora andiamo a combattere per quello che ci resta possibile.